l'idea è che in questo momento lavorare a Gaza come giornalista è diventato quasi impossibile, è sicuramente il posto più pericoloso al mondo dove fare la nostra professione. Questo perché in questi 3 mesi di guerra Israele ha deciso di targetizzare, di rendere degli obiettivi i giornalisti stessi. È avvenuto da principio quando hanno deciso di non far entrare la stampa internazionale. Sono passati 3 mesi, come dicevamo, dall'inizio della guerra e non c'è un solo giornalista internazionale che è entrato liberamente a Gaza. Se si entra a Gaza si entra con i militari israeliani, embedded come si dice, cioè firmando una censura militare, e tutti invece gli accessi dall'Egitto sono bloccati dal Cairo. Anche il Cairo non vuole i giornalisti internazionali là. Quindi i giornalisti che sono dentro in questo momento sono soltanto i Gazawi, e questo ha provocato nelle settimane un problema enorme, perché Israele ha deciso e ha targetizzato, come dicevo, i giornalisti indicandoli come terroristi. Il ministro degli interni Gallant a un certo punto a fine ottobre ha fatto commento a delle foto in cui si vedevano i giornalisti che seguivano gli attacchi del 7 ottobre, diceva: se voi giornalisti avete fotografato, avete partecipato all'attacco di Hamas mentre Hamas buttava giù le barriere o entrava nei kibbutz e non siete intervenuti, vuol dire che siete anche voi dei terroristi. Ovviamente utilizzare questo paradigma con chi racconta cosa avviene è completamente sbagliato, perché si racconta che una persona che porta una macchina fotografica è come una persona che porta un fucile. Israele ha iniziato a bombardare e sembra quasi con selettività ha scelto gli obiettivi che sono i più visibili. La storia che ci racconta un po' quello che avviene in quei giorni a Gaza è quella del corrispondente di Al Jazeera, si chiama Wael Al-Dud. Lui era in diretta in ospedale e ha visto arrivare i corpi della moglie, 2 figli e il nipotino di 1 anno e mezzo. È stato anche lui colpito 3 settimane dopo mentre era a raccontare la caduta di un palazzo. Sono andati a vedere un raid aereo con il cameraman, è stato colpito, lui è stato colpito al braccio, il cameraman alla gamba, il corrispondente è scappato riuscendo a correre, il cameraman non è riuscito a scappare ed è morto dissanguato perché per ore non hanno avuto la possibilità di arrivare i soccorsi ad aiutarlo. L'ultima notizia, sempre che riguarda Al Dawood, è di 3 giorni fa, di 2 giorni fa, quando anche il suo primogenito, anche lui un giornalista, è stato colpito da un altro razzo, sempre da un drone israeliano nel sud della striscia. Non è l'unico, ovviamente, come si capisce, di questo attacco alla stampa. Sono almeno 80 giornalisti uccisi all'interno di questo conflitto. Probabilmente il numero reale che scopriremo soltanto a fine conflitto arriverà a superare i 100. Tu dicevi, appunto, Israele ha fatto dei giornalisti un obiettivo. Lo scopo è non far arrivare quello che accade a Gaza all'esterno? Bisogna immaginare che ci sono 2 modi di censurarsi. C'è la censura, cioè che ti viene imposta da Israele, per cui ci impone di non entrare, per cui non possiamo raccontare. Poi c'è l'autocensura, cioè se tu sei in un posto decidi di non trasmettere delle informazioni o di tagliare alcune informazioni perché il contesto non te lo permette. Israele gioca su questo fatto che chi è dentro si stia autocensurando perché è legato ad Hamas, perché è legato al governo, e per cui tutte le informazioni che vengono da dentro con questa idea dell'autocensura vengono considerate non attendibili. Dall'altra parte c'è la censura preventiva che fa Israele e l'Egitto nel farci entrare, per cui c'è questo gioco per dire le informazioni che vengono da dentro non valgono. L'esempio classico è sul numero dei morti. In questo momento, diciamo, ci sono 23.000 morti. Il Ministero della Salute di Gaza dice che ci sono 23.000 morti, ma il Ministero della Salute di Gaza è comunque gestito da Hamas, per cui Israele non riconosce la possibilità che Hamas dia dei dati giusti. La soluzione sarebbe: mandate le ONG all'interno e aiutateci a fare i calcoli. Questo non avviene, ovviamente, perché Israele non ti fa entrare, per cui il numero non è considerato attendibile perché avviene da una fonte che Israele non ritiene attendibile, e dall'altra parte ci previene la possibilità di andare a controllare. Il numero probabilmente è molto più alto di 23.000, ci sono almeno altre 7-8.000 persone che si trovano sotto le macerie in questo momento e che nessuno è andato a prendere e che sono morte, e scopriremo, come dicevo, alla fine del conflitto. Un'ultima battuta sul, come dire, ruolo internazionale, in particolare dell'Occidente. Io, se guardo la stampa italiana, sì, vengono date notizie dell'uccisione di giornalisti, ma non sembra che questa cosa sollevi grandi scandalo. Valgono di meno le vite dei giornalisti palestinesi? La guerra, ci sono sempre 2 fronti. Nel momento stesso in cui siamo obbligati a raccontarne solo uno, facciamo un buon lavoro magari su quel fronte, però l'altro fronte, non raccontandolo, non stiamo facendo un buon lavoro. L'idea che noi di Israele abbiamo migliaia di storie. Abbiamo avuto almeno 2400 giornalisti che sono stati accreditati e che sono andati in Israele in questi 3 mesi per raccontare le storie che vanno raccontate delle famiglie degli ostaggi, dei morti, degli attacchi. Dovremmo avere le stesse storie personali fatte dall'interno di Gaza. Per farle bisogna che ci deve essere un accesso libero della stampa alle storie. Non avere queste altre storie è una scelta che fanno i media, sì e no, perché si potrebbe comunque riuscire a raccontare anche senza inviare qualcuno. Però dall'altra parte la responsabilità, e questo non mi stancherò mai di ripeterlo, è del paese che ci impedisce di fare questo racconto. Per cui sì, è una colpa dei media italiani o comunque occidentali, perché forse non si stanno ponendo nella maniera migliore per umanizzare chi muore. Dall'altra parte la responsabilità è evidentemente del paese che impone il blocco ai media. E l'ultima battuta, io sono andato a coprire diverse guerre a Gaza. Quando si entra a Gaza, Israele ci fa firmare una censura militare. Adesso è poco applicabile questa censura militare, perché non possono controllare il video che io metto su internet, però comunque è un'idea che ci fa capire come Israele si muove con i media. Cioè, Israele si muove dicendo: voi pubblicate quello che diciamo noi.